persona che in un altro paese, come, cioè una persona che vive un'esperienza del genere come la mia oggi, tutta una cosa ufficiale, quindi sei riconosciuto dalla cittadinanza, dalle istituzioni, e poi varca il confine. Io e Riccarda siamo due strane, non può pensare che questo sia possibile in eterno. Penso che non sia, che sia una cosa che debba cambiare, e che da settembre ricomincia una battaglia, visto che io vorrò il riconoscimento della mia unione anche in Italia, bene che si sappia, diciamo. Cioè io non posso pensare che la mia unione in Germania ha tutti i diritti e doveri, ovviamente. È allucinante che io e Riccarda nel nostro paese siamo due strane. Siamo due strane, mentre qui siamo tutta una famiglia, bla bla bla.